Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Esposti al contagio e preoccupati per i propri familiari, questa è la situazione fotografata dai risultati della prima indagine sull'impatto sociale per gli operatori sanitari durante l'emergenza Covid-19, condotta dall'Associazione Women for Oncology Italia. A Obiettivo Salute la professoressa Rossana Berardi, che è vicepresidente e direttore della Clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona all'Università Politecnica delle Marche. Con Women for Oncology Italy abbiamo condotto un'indagine nazionale su circa 600 operatori sanitari durante questa emergenza Covid, operatori rappresentativi di tutte le regioni e di tutti i ruoli, nella maggior parte dei casi donne, circa il 75%. L'82% degli operatori è consapevole del rischio di contagio e si sente maggiormente esposto alla possibilità di contrarre il virus e a rischio anche per i propri familiari, a tal punto da aver preso delle decisioni importanti che hanno avuto ripercussioni sulla vita familiare, perché nel 60% dei casi si è cambiato alloggio o sono stati costretti a cambiare casa i figli o i familiari. Bene, questa è la prima survey sul disagio sociale degli operatori sanitari che abbiamo promosso e che fotografa una realtà che fa davvero riflettere, perché questa emergenza sta cambiando non solo le nostre abitudini come professionisti, ma anche come genitori, anche come caregiver. Molti operatori sono in prima linea, molte sono donne, sono madri e sono costrette ad allontanarsi dai figli o non poter accudire genitori anziani. E quindi come Women for Oncology Italy siamo preoccupate, siamo anche costrette spesso ad isolarci con tutte le conseguenze psicologiche che questo comporta. E quindi oggi come oggi quello che a cui puntiamo è cercare di rendere più sicuro questo sistema, consapevoli che la distanza di un metro oggi è un atto di amore. Trovare un luogo in cui elaborare l'esperienza del Covid. Nasce così all'Università di Padova la formula del catalogo delle perdite e dei ritrovamenti in tempi di Covid, pensato proprio come spazio in cui mettere in luce l'essenza di questo cambiamento. A Obiettivo Salute la professoressa Ines Testoni, professoressa di psicologia all'Università di Padova, ci spiega come è nato questo progetto e le finalità. L'uomo soffre per ciò che crede di essere. Essere studiosi, ricercatori, artisti espande gli orizzonti del pensiero e quindi rafforza le capacità di gestire il dolore e specialmente di dargli senso. Il catalogo permette a questi esperti di offrire un contributo a chi vuole capire i cambiamenti causati dal Covid, parlando dell'esperienza personale illuminata dal proprio sapere. Quindi studiosi e artisti che volessero dare un contributo possono sicuramente inviarci una proposta. Coloro che volessero mandarci la proposta possono farlo inviando una mail a endlife.psicologia@unipd.it. Trovate naturalmente anche l'indicazione sulle pagine di Obiettivo Salute. Per oggi è tutto, vi ringrazio. Tra poco sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute incontriamo il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo ed esperto in riabilitazione cardiometabolica, per parlare di metabolismo. Lento o rock? Come descrivereste il vostro metabolismo? Per saperne di più seguiteci sulla pagina Facebook del programma. Intanto buona giornata da Nicoletta.